Ciao, allora siamo pronti. Sì, a me c'è tutto. Bene, ma andando arriva? Che da lontano, dal modo 9808, ho fatto un bel viaggetto. Vabbè, allora, speriamo che i fenomeni stavolta sapranno annullarla. Perché la prossima arriva subito e non avrà più sicurezza, sarà sempre più forte. Ok, sì, intanto facciamogli scaricare questa, almeno sto più sicuro. Ma Dozia gliela mandiamo direttamente dal futuro. Bravo. Vabbè, vai, sentiamo. Vabbè, dai, abbraccio.